l'altra Europa. Buon sabato, ben ritrovati da Federico Taddia, questa è l'altra Europa, siamo in diretta, questa è Radio 24, sono 8 minuti dopo le 12, l'appuntamento nel nuovo orario con il nostro spazio in collaborazione con il network Euronet Plus, tante radio europee che cercano di raccontare da tanti punti di vista diversi la stessa Europa, lo stesso percorso politico ma soprattutto culturale, che è quello che cerchiamo di fare il sabato. L'attualità politica ed economica di Radio dell'Europa viene raccontata quotidianamente da Radio 24, noi il sabato cerchiamo sì altre sfaccettature per raccontare questo oggetto, questa cosa, questo movimento che si chiama Europa. In tanti ci criticano, ci dicono vabbè raccontate solo un'Europa bella, l'Europa positiva, nascondete i problemi. Non è vero, non nascondiamo nulla, cerchiamo però, visto che tutti sottolineano quelli che sono gli aspetti negativi dell'Europa, cerchiamo noi di sottolineare, proporvi quella che è l'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità. È il nostro taglio, è quello che ci piace fare, siamo contenti di poterlo fare. Le coordinate virtuali per seguirci anche sui social, Facebook e Twitter, sono le nostre bacheche digitali, le trovate al mio account personale @FedericoTaddia oppure su @EuronetPlusR24, piazze virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Oggi partiamo da un documentario, partiamo dalla strada che troppe volte vede i camionisti nel bene e nel male protagonisti. Dziennikarstwo. Angryż. A. Jeden kilometr? 10 euro centa. Mój kontrakt. Max minimum. Mio padre mi ha detto sempre, dai resista ancora un po' che andiamo a parlare, vediamo se si riesce a fare qualcosa. Però sono trovato che sono passati 3 anni. Senza ferie, senza niente. Assumo il lavoratore. L'Europa è anche questa, l'Europa è quella raccontata da i camion degli altri, il bel documentario di Lorenzo Pirovano, col quale ha vinto nel 2014 il premio per il giornalismo d'inchiesta Roberto Morrione. Lorenzo è un giovane freelance, ha partecipato a questo importante premio giornalistico che vogliamo rilanciare perché l'8 dicembre scade il bando, un premio giornalistico molto particolare, molto specifico, perché premia l'idea, premia l'intuizione più bella, l'idea più bella, il progetto più bello viene finanziato, quindi quello che è un progetto sulla carta può diventare un'inchiesta, può diventare un servizio giornalistico. Premio Roberto Morrione.it, il sito per conoscere tutte le informazioni per questo concorso che, lo ricordo ancora, rivolto ai giovani giornalisti, ai freelance, ai studenti. L'unico vincolo è quello di non aver ancora compiuti 31 anni di età, proprio per incentivare il lavoro dei giovani. Lorenzo Pirovano è qua con noi, ciao Lorenzo. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno, tu sei giovanissimo, vero Lorenzo? Quanti anni hai? Sì, ho 22 anni, quasi 23 il prossimo anno, a gennaio. Con guardi avanti, da grande vuoi fare il giornalista, da piccolo il tuo presente è tantissimo europeo, credo che tu abbia appena finito l'Erasmus, se non erro. Almeno sì, sono tornato l'anno scorso, ho fatto 6 mesi in Polonia, a Varsavia. E poi hai avuto l'intuizione di questo documentario, I camion degli altri, da dove nasce l'idea e come lo hai realizzato? Beh, è partito tutto, hai parlato bene dell'Erasmus perché è partito un po' tutto dall'Erasmus, nel senso che io tornando da Varsavia in autostop, da Varsavia verso Mantova, la mia città, ho dovuto fare i conti anche con i passaggi datemi dai camionisti, visto che erano un po' gli unici particolarmente aperti alla possibilità, ecco, di darmi un passaggio. Quindi ho iniziato a viaggiare anche nelle loro cabine, ho speso un bel po' di tempo con loro, soprattutto tra la Polonia, la Slovacchia, la Repubblica Ceca, fino in Austria, fino ad arrivare in Austria. E conoscendoli, facendo questo viaggio, ho avuto un po' quella che è stata la mia ispirazione, che poi ho unito alla protesta di alcuni lavoratori, di alcuni camionisti che lavoravano in provincia di Mantova e che rivendicavano delle situazioni di lavoro al limite dello sfruttamento. E ho fatto uno più uno, ho parlato con un sindacalista lì di Mantova molto coraggioso e poi ho deciso in extremis proprio gli ultimi giorni di presentare il mio progetto di inchiesta al premier Roberto Morrione e alla fine la giuria ha deciso di premiarlo e di finanziarlo. È un lavoro molto bello, vi consiglio di vederlo, è già online anche, trasporteuropa.it è un sito dove potete vedere il bel lavoro di Lorenzo. Lorenzo, ma tra le tante cose mi ha stupito questo ritorno dall'Erasmus in autostop, è stata il voler fare un'ultima esperienza nell'esperienza, questo ritorno avventuroso. Sì, diciamo che quella parte lì di Europa, avendo passato 6 mesi in Polonia, quella parte lì di Europa è una zona, tra virgolette, trascurata, nel senso che di certo non è, turisticamente parlando, un'area mainstream dell'Europa e quindi ho voluto proprio tornare forte anche del mio livello A1 di polacco. Sono voluto tornare in questo modo, anche provando un nuovo modo, non è che io fossi esperto di autostop, e anche perché proprio il tessere relazioni in questo modo un po' estremo è stato davvero, davvero affascinante. Poi si è visto, ho trovato molte ispirazioni per i miei lavori successivi. Ecco. Certo, ricordo ancora il premio Roberto Morrione, insomma, che ti ha dato la possibilità di realizzare questa intuizione. Andate sul sito, il bando prevede l'8 di dicembre la scadenza per proporre il vostro progetto, premioRobertoMorrione.it. Lorenzo, oltretutto ci tenevo ad aggiungere che al premio Morrione ti affidano ai 3 finalisti un tutor. Io ho avuto Francesca Barzini, che è una giornalista molto in gamba, che era presa diretta e poi al TG3, ed è stata una specie di mamma che mi ha preso sotto la sua ala protettrice e mi ha insegnato un bel po' di cose. Ecco. Insomma, la parola insegnare credo che sia, no, troppe volte sì. Si diventa giornalisti così, solo no, sulla carta. Invece. Soprattutto noi giovani abbiamo tanto da imparare, non si nasce certo imparati. Lorenzo, l'Erasmus, le strade d'Europa, adesso altre esperienze che ti portano al di là dei confini italiani. In un tweet, in una frase, dopo, sei giovanissimo, hai già fatto tanta esperienza, hai toccato le strade d'Europa, hai respirato la polvere, l'asfalto. Ecco, che cos'è per te l'Europa oggi? Qual è l'immagine, qual è la frase che meglio sintetizza la tua idea di Europa? Allora, tu parlavi di opportunità, io direi che non so se sono 140 caratteri, però l'Europa è un mare di opportunità molte volte trascurate e inespresse e inutilizzate anche. Ok, facciamo nostro la tua denuncia. Grazie Lorenzo, complimenti. Grazie per il tuo bel lavoro. Grazie per la possibilità e davvero vi auguro di poter partecipare al premio, perché per me è stato una rampa di lancio che ancora sto sfruttando per la mia aspirazione al giornalismo. Grazie davvero, ciao, buon sabato. Adesso buon sabato. Un Europost-it a proposito di opportunità, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Europost-it. Fellini, demiurgo e artista in viaggio a Bruxelles. Appassionati di cinema, volete respirare le atmosfere oniriche e circensi che solo il cineasta riminese sapeva evocare nelle sue opere? La Fondazione Fellini presenta la prima mondiale della mostra Fellini, demiurgo e artista itinerante, presso la sede del Comitato Economico e Sociale Europeo di Bruxelles. L'esposizione è un omaggio a uno dei più grandi registi europei del XX secolo e un inno alla cultura e all'arte del vecchio continente. Per visitarla c'è tempo fino al 25 novembre. Tutte le informazioni collegandovi al sito eesc.europa.eu. L'altra Europa. Sono già 103. Troppe lingue per una democrazia. Questo è il titolo e il sottotitolo di un libro appena pubblicato per Editori La Terza. L'autore è una persona che le lingue le conosce molto bene, il linguista Tullio De Mauro, che abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi. Buongiorno De Mauro. Buongiorno a lei, a voi e a chi ci ascolta. Troppe lingue per una democrazia, queste 103 lingue parlate oggi in Europa, è quasi una denuncia, è quasi un urlo di rassegnazione? No, nulla di tutto questo. Naturalmente 103 è un numero approssimativo, certo. Scelto per ricordare Mozart da Ponte e le donne di Don Giovanni. In Spagna sono già 1003 e quindi su questo è ricalcato il titolo. Sono di meno se si pensa alle lingue ufficiali, sì, degli stati, sono molte di più se includiamo, come anche giusto, i grandi dialetti tedeschi, italiani, francesi, sono allora decine e decine che si aggiungono e andiamo ben oltre le 100. Dunque, sono molte, sono troppe, ma sono tutte molto radicate. Le grandi lingue ufficiali e i grandi dialetti sono tutti molto radicati nella nostra storia, nella nostra realtà sociale. Questo va ricordato perché non si può pensare che siano cancellabili con un tratto di penna né in tempi rapidi, quindi sono destinati, a Dio piacendo, a resistere a lungo nel tempo. Questo però pone un problema: se mai riuscissimo a realizzare davvero quello che è il sogno del manifesto di Ventotene, certo, e dei federalisti, cioè un'Europa federale in cui non si vota solo per eleggere una, c'è una commissione, ecco, un Parlamento e poi chi governa una commissione che nasce dall'accordo tra gli stati, ma se si realizzasse uno Stato federale in cui il governo e chi governa è eletto, ebbene, allora avremmo bisogno di una lingua per poterci capire da un capo all'altro. Ma questa lingua è l'inglese? Questa lingua potrebbe essere il francese o lo spagnolo o l'inglese o l'italiano, non, in teoria tutte queste grandi lingue che hanno già una buona diffusione andrebbero bene. L'inglese ha dei punti di vantaggio in prospettiva, è già la lingua, come lingua seconda, come lingua studiata, non nativa, è quella più conosciuta in Europa, oltre il 60% della popolazione europea accanto alla propria lingua già conosce l'inglese, questo è un elemento di forza. Un altro elemento che cerco di sottolineare di vantaggio rispetto ad altre lingue è che è una lingua germanica, vicina al tedesco, quindi allo svedese, ma nello stesso tempo ha un vocabolario intriso al 75%, sì, di latinismi e francesismi. Mm-hmm. E questo aiuta? E questo aiuta tutta l'Italia, tutta l'Europa latina, diciamo, certo, neolatina. Mm-hmm. Quindi ha questi punti di vantaggio. Io non ho nessuna... qualche giornale mi ha attribuito una preferenza esclusiva per l'inglese, ma per carità, va bene, l'importante è che ci sia una lingua comune. Ecco, benissimo lo spagnolo. Quello che lei propone è un po', ho letto in un'intervista, un modello italiano, nel senso una lingua principale ma senza dimenticare tutte le altre lingue, quello che facciamo. Beh, certamente, questo mi pare assolutamente indispensabile e anche per portare nell'uso dell'inglese che andremo imparando tutto il patrimonio di esperienze, di utilità che vive per ciascuna popolazione europea nell'uso della lingua nativa, e questo è molto importante, così come è stato importante per l'Italia imparare l'italiano, ma imparare progressivamente a usarlo come stiamo oramai facendo, con la scioltezza, la duttilità che avevamo, che i nostri padri e anche noi abbiamo avuto nell'uso dei nostri dialetti. Certo, tutte queste riflessioni, ve lo ricordo, sono proposte nel libro di Editore La Terza. In Europa sono già 103, troppe lingue per una democrazia. Grazie davvero De Mauro, buon sabato. Grazie a voi, arrivederci. Europost-it. Politiche francesi ed europee. Internship retribuita nel giornalismo a Parigi. Siete interessati a una carriera nel mondo del giornalismo? Siete appassionati di temi europei e vorreste vivere a Parigi? La rivista online di politiche francesi ed europee, Context, cerca stagisti per un periodo di 4-6 mesi. I requisiti necessari per candidarsi sono la laurea specialistica, l'ottima conoscenza di francese e inglese, una buona cultura web e la passione per la politica dell'Unione. Se pensate di essere la persona giusta, inviate curriculum e lettera di presentazione all'indirizzo email cforissier@context.com entro il 21 novembre. Rich you of possessions, fleet at hand. Remain your funny Valentine. Chiudete gli occhi ora perché vi portiamo a Bruxelles, vi portiamo al Parlamento Europeo e vi portiamo al Parlamento Europeo per un appuntamento al buio. Lo facciamo con Rodolfo Cattani, responsabile dei contatti con le istituzioni europee dell'Associazione Europea dei Non Vedenti. Ciao Rodolfo, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, cosa avete combinato con questi appuntamenti al buio? Allora, all'interno del Parlamento europeo abbiamo realizzato uno stand con 5 postazioni dove i visitatori, europarlamentari, giornalisti, gente che passava di lì, potevano sperimentare la condizione di una persona non vedente rispetto alla tecnologia attuale. Mm-hmm. Noi volevamo dimostrare che la tecnologia è importantissima per lo sviluppo, infatti le TIC sono il driver, diciamo così, della società dell'informazione moderna, però purtroppo formano ogni tanto delle barriere che rendono difficile l'accesso alle persone non vedenti e ipovedenti. Ma veramente, molto banalmente, guarda, io anche ci ho pensato leggendo i vostri comunicati stampa. C'è il touchscreen, che ormai è la nostra quotidianità, per un non vedente è una barriera quasi invalicabile. Sì, adesso effettivamente si sta cercando di superare questa difficoltà. Apple per esempio ha già fatto dei buoni progressi, Android sta facendo lo stesso, però se io vado a comprare un forno, se vado a comprare una lavatrice o un qualsiasi elettrodomestico, il touchscreen ancora è assolutamente inaccessibile. Certo. Tant'è vero che la prima volta che mia madre l'ha comprato mi sono bruciato un dito nel tentativo di farlo funzionare. Ecco, ma in questo l'Europa cosa dovrebbe fare e cosa potrebbe fare? Perché questo vostro intervento all'interno del Parlamento Europeo? Beh, l'abbiamo scelto il Parlamento Europeo perché sono in cantiere attualmente due importanti leggi, sì. Diciamo, noi si chiamano direttive al Parlamento, a livello europeo. E c'è una direttiva che è già avanzata nell'iter perché è partita dalla Commissione europea e passata al Parlamento e adesso si trova all'approvazione del Consiglio, che riguarda soprattutto l'accessibilità dei siti web pubblici e dei servizi che vengono offerti, diciamo così, online. Okay. Mm-hmm. Questo perché è importante? Perché oggi solo il 10% dei siti sono accessibili. Questo significa che le persone non vedenti e ipovedenti rischiano un'esclusione e emarginazione molto molto forte. Poi poi c'è un'altra direttiva che sta per arrivare e che quindi passerà attraverso il Parlamento, sì, che è il punto più importante per la realizzazione delle leggi, che riguarda l'accessibilità di beni e servizi che devono essere resi accessibili fin dall'inizio, evitando così la necessità di utilizzare tecnologie assistive costose, difficili da realizzare, mm-hmm, che pesano o sulla persona oppure sul servizio sanitario che te lo fornisce. Se tu pensi che oggi uno screen reader che viene venduto regolarmente costa 1600 euro, ora costa tre volte quello che costa un computer. Certo, insomma, quindi va pensato all'origine tutto ciò. Rodolfo, qual è stata la reazione degli europarlamentari e dei giornalisti? Come hanno reagito a questo primo appuntamento al buio? Allora, hanno reagito molto bene, siamo stati, diciamo così, un po' subissati dalle loro presenze, dalle domande. E naturalmente noi puntavamo soprattutto sugli europarlamentari, che adesso poi dovranno nelle commissioni e alla fine della plenaria dovranno votare. Okay. E il voto del Parlamento è fondamentale, anche se poi noi abbiamo sempre molte difficoltà, mi dispiace di doverlo dire, con il Consiglio, dove gli Stati membri frenano sempre. Ok, insomma, ma comunque continueremo a seguire questa cosa. Dacci il sito internet per tutte le informazioni. www.euroblind.org. Perfetto, grazie davvero Rodolfo, ciao e buon sabato. Grazie, buona giornata. Un euro post-it, ci fermiamo per la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Settimana europea per la riduzione dei rifiuti 2014. Odiate gli sprechi alimentari e vorreste imparare a cucinare gli avanzi? Vi piacerebbe produrre in casa il compost? La Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti fa al caso vostro. Dal 22 al 30 novembre, il Comitato Promotore Nazionale SER, composto tra gli altri da Ministero dell'Ambiente, Federambiente, Provincia di Torino, Provincia di Roma e Lega Ambiente, organizza 7 giorni di azioni, incontri e laboratori per sensibilizzare le istituzioni, gli stakeholder e tutti i consumatori sulle strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti messe in atto dall'Unione Europea. Per tutte le informazioni visitate il sito www.ewwr.eu. L'altra Europa. Sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, @FedericoTaddia su Twitter e su Facebook per seguirci. L'altra Europa è anche questa cosa qua che state ascoltando, è una semplice canzone portoghese per bambini, ma anche da questa e con questa filastrocca si può dire che Europe is not dead, l'Europa non è morta, vero Filip? Sì, sono qui. Eccolo lì. Sì, buongiorno. Buongiorno, Filip e Kaila. Ho detto bene, ho pronunciato bene il cognome? Sì, Perfetto. Kaila, esattamente. Kaila. Ex presidente di Euronews, fa parte dell'Associazione Europea Senza Frontiere, di cui fra pochissimo ci dirai chi siete e cosa fate. Però partiamo da questo portale che so che conosci molto bene, europeisnotdead.com. Che cos'è? Che cos'è? Sì, in primo devo dire che non sono italiano e se può parlare un poco più lenta, troppo velocemente, che possa capire le domande, sarebbe migliore. Sarà fatto. Europe is not dead fu creato per un francese che vive a Bruxelles, però è della generazione Erasmus, sì, e ha vissuto non solo in Francia, in Belga, però anche nella Spagna, in Alemania, e ha voluto creare un sito che raggiunge tutte le caratteristiche culturelle europee più caratteristiche che sono le, per esempio gli stereotipi europei, i mostri, le tradizioni strane, le parole intraducibili, le barzellette, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Ha creato un sito in tre parti che si chiamano audio, video, sì, e disco. Disco è latino, disco si riferisce allo scritto, ai libri, alle, sì, parole, alle espressioni. È un sito molto, molto originale, ci sono 36 articoli in francese e inglese in questo momento, e il creatore del sito, Romain Seignobert, chiede l'aiuto di tutti gli europei per aggiungere altri articoli e anche svolgere il sito in altre lingue, incluso l'italiano, naturalmente. Certo. Una chiamata a tutti gli italiani. Eh sì, insomma, questa è una vera convocazione. Se c'è qualcuno in ascolto interessato, vi consiglio di andare subito a vedere il sito europeisnotdead.com, perché è davvero un portale ricchissimo di spunti, di tradizioni, di storie, per giocare proprio con quella che è la contaminazione culturale, per fare un'Europa comune. Filippo, ci vuoi fare un esempio di una storia, di una barzelletta, di una tradizione che hai trovato e che ti ha colpito? Quanto alle barzellette, in Francia naturalmente ci sono molte barzellette belghe, sì, o svizzere, dove prendiamo in gioco i belghi e i svizzeri. Una barzelletta che mi piace molto, però che non è molto gradevole per i svizzeri, è la seguente. I svizzeri sono gente che si alza presto, ma che si sveglia tardi. E dice tutto. Non aggiungerei è altro. È un po' cattivo. La barzelletta è satira sociale. Filippo, invece, la tua associazione Europei Senza Frontiere di cosa si occupa? Sì, l'associazione l'ha creato anche 2 anni fa per promuovere la cittadinanza europea e specialmente il voto degli europei a tutte le elezioni. In questo momento gli europei che vivono in un altro paese, per esempio un italiano in Parigi o un francese in Roma, possono votare alle elezioni locali europee, però non alle nazionali. Certo. E credo che è una falta che bisogna riparare, e facciamo un poco di militantismo per convincere alla classe politica di svolgere il diritto di voto in tutti i paesi europei, di modo che tutti gli europei che residono in questo paese possano votare a tutte le elezioni. Abbiamo lanciato 2 anni fa una iniziativa europea che si chiama Let Me Vote, che ha avuto un abbastanza successo. Sì. E ci sono molti politici in differenti paesi europei, incluso in Spagna, il vostro segretario di Stato per gli affari europei, Sandro Gozzi, sì, che è a favore della questione. Mm-hmm, certo. È un tema caldo di cui ne parleremo anche tra pochissimo qui all'Altra Europa. Vuoi darci un sito per tutte le informazioni? Sì, abbiamo un sito che si, sì, chiama europeansansfrontiere.eu. Perfetto. E ci sono 2 altri siti in questo sito che si chiamano letmevote.eu e anche rocktheeurovote.eu, che è un'azione che abbiamo fatto l'anno passato per promuovere il voto di tutti gli europei alle elezioni europee. Perfetto, grazie davvero, buon sabato, ciao Filippo. Ciao, grazie. Europostit. I nuovi protagonisti delle politiche giovanili nascono con un tirocinio. Hai tra i 21 e i 31 anni? Ti piacerebbe fare un'esperienza di 14 settimane all'estero? L'Accademia Europea di Firenze offre 27 borse Leonardo di tirocinio e di apprendimento interculturale e linguistico in tutta Europa. Si tratta del progetto Pro Actors, attori nello sviluppo di comunità e politiche giovanili, che ha come obiettivo la formazione di nuove figure professionali esperte nell'educazione, nell'inserimento lavorativo e nelle politiche giovanili. Le candidature dovranno avvenire sia per posta sia tramite email, secondo le modalità specificate all'interno del bando, e dovranno essere inviate entro il 24 novembre 2014. Per informazioni, visita il sito dell'Accademia Europea di Firenze, aefonline.eu. Generazione senza voto, questo è il nome della campagna lanciata in questi giorni da Erasmus Student Network Italia. Con noi c'è il presidente Carlo Bitetto. Ciao Carlo, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, una iniziativa importante, giornata importante anche per voi. Ti chiedo un minuto di pazienza, le informazioni per chi sta viaggiando, poi siamo immediatamente da te. L'Altra Europa. Eccoci qua in collegamento con Carlo Bitetto, presidente di Erasmus Student Network Italia. Carlo, che cos'è la campagna Generazione Senza Voto? Ho sentito che il tema del diritto al voto è molto caldo in queste ore, in questi giorni. Noi come Erasmus Student Network chiediamo una cosa molto semplice, cioè che i nostri studenti italiani, una volta all'estero per un programma di mobilità, di studio e tirocinio, possano votare per le elezioni italiane direttamente dall'estero, semplicemente recandosi presso ambasciate e consolati, sostanzialmente godendo di quella agevolazione che già esiste per chi si trovi all'estero, per chi risiede all'estero da più di un anno, che inspiegabilmente mette questo ostacolo ai nostri studenti Erasmus. Quale strumento avete scelto per fare questa richiesta? Siccome un anno fa, quando ci apprestavamo a votare per le politiche, ci furono diversi annunci, diversi proclama da parte di molti gruppi politici dicendo questa è una priorità, ma poi nulla fu fatto, a questo punto abbiamo fatto una cosa molto semplice: abbiamo preso la Costituzione italiana, l'articolo 71, e abbiamo detto ok, proviamo a raccogliere le 50.000 firme per fare una proposta di legge di iniziativa popolare. E così proprio in questi giorni, nelle 50 università italiane dove sono presenti i nostri volontari, Udine è l'ultima aggregata sia al network, stiamo spingendo per raccogliere appunto le firme. Una campagna giovane, c'è entusiasmo tra i ragazzi, c'è fiducia anche nel fatto che se la Costituzione afferma che si possa procedere con questo strumento, noi ci crediamo e daremo il massimo. La risposta è stata molto molto positiva per adesso. esneitalia.org il sito per tutte le informazioni. Tra l'altro, questo è un weekend molto particolare perché c'è l'incontro culturale Erasmus, se non erro, a Roma, giusto? Siamo qui con 2500 studenti, è un weekend bellissimo, sono ragazzi che arrivano da tutta Europa e sono stati accompagnati qui dalle varie sedi di SM, hanno visitato ieri circa 1000 persone, hanno visitato i Musei Vaticani, quindi immaginatevi quale impatto forte abbiano avuto con la cultura italiana, e oggi sono tutti a spasso per Roma, quindi davvero una grande festa di colori, auspicandoci appunto di potersi finalmente garantire quel diritto al voto che nel 2014 si presenta davvero come imprescindibile per tutti. Carlo, ma quei 2000+ ragazzi che sono a Roma in queste ore rappresentano l'Europa di oggi o l'Europa di domani? Rappresentano l'Europa di oggi. Noi non piace parlare di Europa di domani, di giovedì di domani. Secondo noi l'Europa è oggi, ho fatto tutto oggi, bisogna approfittare adesso di tutte le conoscenze che l'esperienza Erasmus dà, assolutamente. Quindi siamo gli europei di oggi. Grande, in bocca al lupo per questo weekend e in bocca al lupo per la vostra campagna. Ci ritroveremo qui all'Altra Europa. Ciao Carlo, grazie. Buona giornata, grazie. Buon sabato. I fell on the playing field, the work of an arrow. È stata in lista fino alle ultime ore tra le candidate per diventare capitale europea della cultura 2019. Poi la città scelta è stata Matera, ma Ravenna in questi giorni ha avuto un altro titolo altrettanto importante: Città Europea dello Sport 2016. Perché? Qual è il valore di un titolo come questo? Lo chiediamo a una delle testimonial dello sport e della cittadina romagnola. Diamo il benvenuto alla senatrice Josefa Idem. Buongiorno Josefa. Buongiorno, buongiorno. Qual è il valore di Ravenna Città dello Sport nel 2016? Dal momento in cui l'Italia è sempre fanalino di coda a livello di confronto internazionale, diciamo così che questi titoli hanno assolutamente il valore di dare inizio, di stimolare, di essere un impulso per crescere, e questo a partire dai propri punti di forza. Quindi Ravenna ha dato mostra di tutto ciò che ha di bello nello sport, la sua rete associazionistica, tutta la sua attività anche dei volontari, una grande solidarietà, una grande convivenza sportiva, e ha costruito alcuni bellissimi progetti che faranno crescere la città dal punto di vista sportivo in vista di questa assegnazione. Certo, e io credo che il valore di queste etichette, di queste assegnazioni, sia proprio anche quello delle enfatizzare, amplificare delle buone pratiche che anche altre città, altre realtà possono vedere, copiare e imitare. E uno pensa a Ravenna e non pensa immediatamente allo sport, invece qual è il valore aggiunto, qual è il segreto? Come fa Ravenna ad avere dei numeri altissimi, cioè quasi il 50% dei cittadini pratica sport? Qual è il segreto, Josefa? È proprio questo, no? Una cittadinanza attiva, vissuta insieme. È questo che cercavo anche di dire prima. Noi siamo reduci della maratona di Ravenna, che quest'anno ha visto un numero di partecipanti alla maratona, ma non solo, anche alla corsa dei 10, 20, 30 chilometri, alla non competitiva dei 5 chilometri, tutti lì a camminare, proprio a dimostrazione del fatto che c'è un grande entusiasmo attorno a questo sport, che poi in questo momento di crisi diventa un doppio, un triplo valore, perché attorno alla comunità, attorno al fatto di reggersi a vicenda, di vivere insieme questi momenti, diventa un particolare valore. Poi, voglio dire, Ravenna è il comune più esteso dal punto di vista territoriale subito dopo Roma, ed è comunque fornito di una vasta rete di impianti, di calcio, di tennis, e poi nel suo centro la piscina, un palazzetto piuttosto grande, un altro palazzetto più piccolo, anche se poi ci sarebbe la necessità di averne uno all'altezza di giocare nella Serie A. Quindi a partire da quello che ha, penso che ci sia questo impulso, questo stimolo anche con questo titolo a mettersi tutti insieme e migliorare ulteriormente. Josefa, lontana dai riflettori, ogni tanto la tira fuori ancora la canoa? No, la canoa non la tiro fuori, perché sono molto lontana dal lago dove sotto mi alleno, e il tempo che ci metto per arrivare al lago e tornare a casa, ho già finito la crossetta di un'oretta e mezza. Quindi adesso l'obiettivo è quello di muovermi, di stare in forma, di scatenare endorfine per farmi essere di umore migliore, cosa che è anche necessaria negli ambiti politici, come ben puoi immaginare. Immagino, però insomma anche questo è essere bravi testimonial dello sport, in questo caso Ravenna, Città Europea dello Sport 2016. Grazie davvero, buona giornata. Grazie, buona giornata a voi. E questo grazie va a tutti voi per essere stati in nostra compagnia e alla squadra dell'altra Europa, Miriam Lucchetti e Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata, Valeria Bernardi oggi alla parte tecnica, Lucia Tolve in assistenza. Voi per essere stati in nostra compagnia, vi aspettiamo sui social durante la settimana oppure scriveteci direttamente l'altraeuropa@radio24.it. L'appuntamento è a domani con Si può fare, a sabato prossimo ancora con l'altra Europa. Ciao! L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.